ad alta voce. Maria Pajato legge Nevskij prospekt, la prospettiva, di Nikolaj Vasilievich Gogol. Traduzione di Tommaso Landolfi. Davanti a lui stava seduto Schiller. Non già lo Schiller, autore del Guglielmo Tell e della storia della guerra dei trent'anni, sibbene il noto Schiller, mastro zincaio sulla via Mianskaja. Accanto a Schiller stava Hoffmann. Non già lo scrittore Hoffmann, sibbene il rinomato calzolaio della via Officerskaja, grande amico di Schiller. Schiller era briaco e stava seduto su una seggiola, pestando col piede e dicendo qualcosa concitatamente. Tutto ciò non avrebbe magari stupito Piragoff, ma lo stupì invece la curiosa posizione dei figuranti. Schiller stava seduto presentando il suo naso abbastanza massiccio e con la testa levata verso l'alto, laddove Hoffmann lo reggeva, per questo naso appunto, con due dita e roteava la lama del suo coltello da calzolaio giusto su di esso. Ambedue i personaggi parlavano in tedesco, e però il tenente Piragoff, che di tedesco sapeva appena Gut Morgen, di tutta questa storia non ne capiva nulla. Del resto, il discorso di Schiller si concluse come segue. «Non lo voglio! Non so che farmene del naso!» diceva agitando le mani. «Per il naso soltanto se ne vanno 3 funte di tabacco al mese. E io pago in un sudicio spaccio russo, perché gli spacci tedeschi non tengono tabacco russo, pago in un sudicio spaccio russo per ogni funto 40 copechi, che fa 1 rublo e 20 copechi». Che fa 14 rubli e 40 copechi, capisci, amico mio Hoffmann? Per il naso soltanto 14 rubli e 40 copechi. E aspetta, la festa fiuto del rapé, perché non voglio di festa fiutare il cattivo tabacco russo. In tutto l'anno fiuto 2 funte di rapé a 2 rubli il funt. 6 più 14 fa 20 rubli e 40 copechi per il solo tabacco. È un furto. Io ti domando, non è così come dico? Hoffmann, che era pure briaco, rispose affermativamente. 20 rubli e 40 copechi! Io sono un tedesco di Svevia! Ci ho un re in Germania! Non voglio il naso! Tagliami il naso! Ecco il mio naso!» E se non fosse stata l'inopinata comparsa del tenente Piragoff, certo Hoffmann, senza saperne leggere né scrivere, avrebbe tagliato il naso a Schiller, già che aveva già atteggiato il proprio coltello come per tagliare una suola. Schiller fu assai indispettito che un personaggio sconosciuto e non richiesto lo disturbasse così poco a proposito. Sebbene in preda agli inebrianti vapori della birra e del vino che gli facevano turbinare la testa, egli s'avvide tuttavia che c'era qualcosa di vergognoso nel trovarsi così in una simile posizione e in procinto d'una tal pratica in presenza d'uno spettatore estraneo. Frattanto Piragoff si inchinava leggermente e diceva con l'amabilità che gli era propria: «Perdonatemi». «Fuori di qua!» rispose a ciò Schiller, strascicando le parole. Questo lasciò perplesso il tenente Piragoff. Un simile trattamento era per lui del tutto nuovo. Il sorriso che aveva leggermente increspate le sue labbra scomparve a un tratto. Col senso della dignità offesa, egli disse: «Mi meraviglio, egregio signore. Voi certo non avete fatto caso. Io sono un ufficiale. Che è un ufficiale? Io sono un tedesco di Svevia. Io stesso!» A questo punto Schiller picchiò il pugno sulla tavola. «Sarei un ufficiale! 1 anno e mezzo allievo, 2 anni tenente, e io domani sono subito ufficiale. Ma io non voglio prestar servizio. Io far così agli ufficiali. Fu!» Così dicendo, avanzò la propria palma e vi fece sopra «Fu!» appunto. Il tenente Piragoff s'avvide che altro non gli restava se non battere in ritirata. Non di meno, un simile trattamento tanto poco convenevole al suo grado lo offendeva. Egli si fermò più di una volta sulla scala, quasi per riprender fiato, e rifletté sul come dare ad intendere a Schiller la sua temerità. Infine decise che Schiller si poteva compatirlo, dato che la sua testa era piena di birra. Inoltre si rammentò della bella bionda e risolse di mettere una pietra su tutto. Il giorno dopo, la mattina presto, Il tenente Piragoff si presentò all'officina del mastro zincaio. Nel vestibolo gli venne incontro la graziosa biondina e con voce alquanto severa, che al suo visetto stava a pennello, chiese: «Che vi serve?» «Ah, buongiorno, carina mia. Non mi riconoscete? Birbantella, che occhietti incantatori!» Ciò dicendo, Piragoff voleva affettuosamente levarle con due dita il mento, ma la biondina emise una timorosa esclamazione con la medesima severità di prima, ridomandò: «Che vi serve?» «Vedervi? Non mi serve altro», disse il tenente Piragoff, sorridendo amabilmente e avvicinandosi. Ma accortosi che la timorosa biondina voleva scivolare verso la porta, aggiunse: «Desidererei, mia cara, ordinare degli speroni. Potete farmi degli speroni? Quantunque, per amar voi, non occorrano punto speroni, ma piuttosto un piccolo morso. Che belle manine!» Il tenente Piragoff era sempre assai piacevole in effusioni di questo genere. «Vado subito a chiamar mio marito», esclamò la tedeschina e uscì. In capo a qualche minuto, Piragoff vide Schiller che veniva fuori con occhi di sonno, appena tornato in sensi dalla briaca della sera precedente. Guardando l'ufficiale, a questi rivennero in mente, come in un sogno confuso, i fatti della sera innanzi. Egli era lungi dal ricordare le cose con precisione, ma pure sentiva confusamente d'aver commessa qualche sciocchezza, e però accolse l'ufficiale con aria a quanto si può severa. «Per gli speroni non posso farli a meno di 15 rubli», disse, per sbarazzarsi di Piragoff, giacché a lui, come a onorato tedesco, cuoceva di trovarsi fra i piedi uno che l'aveva veduto in una situazione poco onorevole. Schiller amava bere senza alcuno spettatore, con due o tre amici, e si segregava in tale occorrenza persino dai suoi lavoranti. «Come mai sono tanto cari?» chiese carezzevolmente Piragoff. «Lavoro tedesco», replicò molto freddamente Schiller, lisciandosi il mento. «Un russo accetterebbe di farli per 2 rubli». «Prego allora. Per dimostrarvi che mi piacete e che ho caro di fare la vostra conoscenza, pagherò 15 rubli. Schiller restò un momento sopra pensiero. La coscienza, come a onorato tedesco, gli rimordeva alquanto. Volendo indurre egli stesso il cliente a ritirare l'ordinazione, dichiarò che prima di 2 settimane il lavoro non poteva essere pronto, ma Piragoff non fece difficoltà di sorta e si mostrò perfettamente d'accordo. Il tedesco si pose a riflettere e a pensare come avrebbe dovuto fare perché il suo lavoro risultasse davvero del valore di 15 rubli. In quella, la biondina rientrò nell'officina e prese a razzolare sulla tavola coperta di bricchi. Il tenente approfittò della pensosità di Schiller, le si accostò, le strinse il braccio nudo fino alla spalla. Ciò non piacque affatto a Schiller. «Meine Frau!» esclamò egli. «Was wollen Sie doch?» rispose la biondina. «Fila in cucina!» La biondina s'allontanò. «Allora fra 2 settimane?» disse Piragoff. «Sì, fra 2 settimane!» rispose astratto Schiller. «Adesso ho molto lavoro!» «Arrivederci! Verrò io stesso!» «Arrivederci!» rispose Schiller, richiudendo la porta dietro di lui. Il tenente Piragoff risolse di non smettere le proprie assiduità, sebbene la tedeschina gli avesse significata una chiara ripulsa. Egli non poteva neppur concepire che si potesse resistergli, tanto più che la sua amabilità e il brillante grado gli davano pieno diritto all'attenzione delle donne. Giova non di meno notare altresì che la moglie di Schiller, con tutto il suo leggiadro aspetto, era molto stupida. Del resto, la stupidaggine costituisce in una bella moglie un particolare incanto. Perlomeno io ho conosciuto molti mariti che vanno pazzi per la stupidaggine delle proprie mogli e vi scorgono i segni dell'innocenza infantile. La bellezza fa autentici miracoli. ogni difetto morale di una bella donna, lungi dal generare repulsione, diventa invece al massimo grado attraente. Il vizio stesso spira leggiadria, ma scompaia la bellezza e una donna dovrà essere 20 volte più intelligente di un uomo per attirarsi, non dico amore, ma almeno stima. Del resto, la moglie di Schiller, sciocca com'era, era sempre fedele al suo dovere di moglie, ragion per cui a Piragoff era assai difficile riuscire nella sua ardita impresa. Ma al superamento delle difficoltà è appunto legata sempre la soddisfazione. E la biondina diventava dunque per lui più interessante di giorno in giorno. Egli prese ad informarsi un po' troppo spesso degli speroni, sicché da ultimo a Schiller la cosa venne a noia. Questi si sforzò di condurre a termine il più presto possibile il lavoro, che fu finalmente pronto con qualche giorno di anticipo. «Ah, che magnifico lavoro!» esclamò il tenente Piragoff vedendo gli speroni. «Mio Dio, come son fatti bene! Il nostro generale stesso non ha di simili!» Un senso di soddisfazione si diffuse nell'animo di Schiller. I suoi occhi rivelarono la gioia ed egli si riconciliò del tutto con Piragoff. «L'ufficiale russo è un uomo intelligente», pensò. «Cosicché voi, a quel che sembra, sapreste anche fare una guaina per pugnale, ad esempio, o per altri arnesi?» «Non saprei, so benissimo», disse Schiller con un sorriso. «Fatemi dunque una guaina per pugnale, ve lo porterò. Ho un ottimo pugnale turco, ma ci vorrei un'altra guaina». Per Schiller questo fu come lo scoppio d'una bomba. La sua fronte a un tratto si corrugò. «Brava la bestia», pensò, rimproverandosi mentalmente d'essersi attirato egli stesso quella commissione. E rifiutarsi ormai gli pareva disonorevole, senza contare che l'ufficiale russo aveva lodato il suo lavoro. Scuotendo alquanto la testa, comunicò la propria accettazione, ma il bacio che andandosene Piragoff applicò sfacciatamente proprio sulle labbra della bella biondina lo gettò in un completo imbarazzo. Stimo però non inutile far conoscere al lettore un po' più strettamente questo Schiller. Schiller era un autentico tedesco, in tutta l'estensione del termine. Già fin dal 20° anno di età, da quel tempo beato che un russo vive come Dio la manda, già da allora si era organizzata tutta la propria vita e non faceva strappi alla regola per nessun motivo. Aveva stabilito di levarsi alle 7, di pranzare alle 2, d'essere puntuale in ogni cosa, ebriaco ogni domenica. Aveva stabilito di costituirsi nel corso di 10 anni un capitale di 50.000 e anche questo era certo e ineluttabile come il destino, giacché piuttosto un impiegato dimenticherà di buttar l'occhio nel vestibolo del proprio direttore che un tedesco si risolva a venir meno alla propria parola. Per nessun motivo aumentava Schiller le proprie spese. E se il prezzo delle patate saliva contro il consueto, lui, per conto suo, non aggiungeva un solo copeco, ma semplicemente diminuiva la quantità. E sebbene gli capitasse talvolta di restare con un po' d'appetito, pure finiva col farci l'abitudine. La sua meticolosità giungeva al punto che aveva stabilito di non baciare sua moglie più di 2 volte durante la giornata. E perché non gli avvenisse di baciarla fuori programma, si guardava bene dal mettere nella minestra più di un solo cucchiaino di pepe. È anche vero che la domenica questa norma non veniva rigorosamente osservata, perché Schiller beveva allora 2 bottiglie di birra e 1 bottiglia di acquavite di cimino, contro la quale acquavite si scagliava tuttavia sempre. Egli non beveva affatto come un inglese, che subito dopo mangiato spranga la porta e si sbornia da solo. Al contrario, egli, da buon tedesco, beveva sempre ispiratamente, o col calzolaio Hoffmann, o col falegname Kunz, anche lui tedesco e grande ubriacone. Tale era il carattere del degno Schiller, il quale fu da ultimo condotto a una situazione imbarazzante fino all'estremo. Sebbene flemmatico e tedesco, tuttavia il comportamento di Piragoff risvegliava in lui qualcosa di simile alla gelosia. Si rompeva la testa e non riusciva a immaginare in qual maniera avrebbe potuto liberarsi di quell'ufficiale russo. Nel frattempo Piragoff, fumando la pipa nel cerchio dei suoi colleghi, giacché la provvidenza ha così disposto che dove c'è ufficiali ci sia anche pipe, fumando dunque la pipa nel cerchio dei suoi colleghi, alludeva furbescamente e con un gradevole sorriso a un intriguccio con una bella tedeschina con la quale, a sentir lui, era ormai arrivato alle strette, ma che in realtà aveva quasi persa ogni speranza di piegare alle sue voglie. Un giorno egli passeggiava per la Mianskaya guardando alla casa su cui faceva bella mostra di sé l'insegna di Schiller coi suoi bricchi e i suoi samovar. Con sua somma gioia vide la testa della biondina che, sporgendosi da una finestra, guardava i passanti. Si fermò allora, fece un salutino con la mano e disse «Gut morgen!». La biondina lo salutò a sua volta come un conoscente. «Ebbene!» «Vostro marito è in casa?» «Sì, in casa», rispose la biondina. «E quand'è che non è in casa?» «La domenica non è in casa», disse la biondina giuccherella. «Mica male», pensò Piragoff. «Occorre tenerlo presente». E la domenica di poi, inevitabile come neve sul capo, si presentò alla biondina. Schiller di fatto non era in casa. La bella padroncina si spaventò, ma Piragoff si condusse per questa volta con sufficiente cautela. Si contenne assai rispettosamente e, inchinandosi, rivelò tutta la bellezza della sua vita serrata ed elastica. Scherzò con molta amabilità e cortesia, ma la scioccherella di tedeschina rispondeva tutto con monosillabi. Infine, arrabattandosi in ogni maniera e visto che niente poteva interessarla, Piragoff le propose di danzare. La tedeschina consentì all'istante, perché le tedesche vanno pazze per il ballo. Su ciò Piragoff appuntava le sue maggiori speranze. In primo luogo, ciò gli procurava già di per sé una non piccola soddisfazione. In secondo luogo, poteva mettere in mostra la sua linea e la sua abilità. In terzo luogo, il ballo era il sistema migliore per avvicinarsi, abbracciare la bella biondina e porre le basi di tutto. Insomma, egli se ne riprometteva un completo successo. Cominciò con una gavotta, sapendo che con le tedesche è necessaria la progressione. La bella tedeschina s'avanzò nel mezzo della camera e levò la leggiadra gambetta. Questo atteggiamento rapì Piragoff al punto che egli si buttò a baciarla. La tedeschina principiò a gridare e così aumentò ancora la propria attrattiva agli occhi di Piragoff. Egli la cosparse di baci quando improvvisamente la porta si aprì ed entrò Schiller con Hoffmann e il falegname Kunz. Tutti e tre questi degni artigiani erano briachi come calzolai. Giudichi ora il lettore stesso dell'ira e dell'indignazione di Schiller. «Sfacciato!» gridò egli al colmo della rabbia. «Come osi baciare la moglie mia? Tu sei un mascalzone e non un ufficiale russo! Il diavolo se la porti, amico mio Hoffmann! Io sono tedesco e non un porco russo!» Hoffmann rispose affermativamente. «No, io non voglio aver corna! Prendilo, amico mio Hoffmann, per la collottola! Io non voglio!» proseguì agitando violentemente le mani mentre il suo viso era simile al panno rosso del suo panciotto. «Io sto a Pietroburgo da 8 anni! Io ho una madre in Svevia e mio zio a Norimberga. Io sono tedesco e non un bue cornuto. Via di qui lui, amico Hoffman. Prendilo per le mani e per i piedi, camerata mio Kunz. E i tedeschi afferrarono Piragoff per le braccia e per le gambe. Invano egli si sforzò di liberarsi. Questi tre artigiani erano la gente più robusta di tutti i tedeschi di Pietroburgo e lo trattarono con tanta rozzezza e con così pochi riguardi che, lo confesso, assolutamente non trovo parole per descrivere questa pietosa faccenda. Son sicuro che il giorno dopo Schiller fu in preda a una violenta febbre, che tremava come una foglia attendendo di minuto in minuto l'arrivo della polizia, che avrebbe dato Dio sa che cosa perché tutto quanto era avvenuto la sera precedente non fosse stato che un sogno. Ma quello che è stato non vale voler cambiare. Nulla poi poteva paragonarsi all'ira e all'indignazione di Piragoff. Il solo pensiero di quell'orribile umiliazione lo faceva andare su tutte le furie. La Siberia, la fustigazione gli sembravano un troppo leggero castigo per Schiller. Si precipitò a casa per cambiarsi e andarsene poi difilato dal suo generale a dipingergli coi più vivaci colori la ribalderia dei tre tedeschi. Voleva rimettere anche un esposto allo Stato Maggiore Generale e, se la pena comminata all'offensore non fosse stata per lui soddisfacente, andare avanti fino in fondo. Ma tutto ciò si concluse in maniera piuttosto strana. Per via egli entrò in un caffè, mangiò un paio di paste sfoglie, lesse un po' L'Ape del Nord e uscì di là in una disposizione di spirito già un po' meno furiosa. Poi il piacevole frescolino della sera lo indusse a passeggiare un po' sulla prospettiva. Verso le 9 si calmò e giudicò che non stava bene disturbare il generale di domenica, senza contare che questi era certamente invitato da qualche parte, così che egli se ne andò a una serata presso un direttore del Collegio dei Conti, dove c'era una compagnia molto amabile di funzionari e di ufficiali. Là passò la sera con soddisfazione e si distinse tanto nella mazurca da mandare in estasi non solo le dame, ma persino i cavalieri. «Meravigliosamente organizzato il nostro mondo», pensavo io, passeggiando tre giorni dopo sulla prospettiva e ripensando a questi due avvenimenti. «In che maniera strana e incomprensibile il destino si fa giuoco di noi! Otteniamo noi mai una volta qualcosa di ciò che desideriamo? Raggiungiamo noi mai ciò a cui paiono espressamente commisurate le nostre forze? E tutto invece va alla rovescia. A uno il destino ha dato una magnifica pariglia di cavalli ed egli ci scarrozza indifferente, senza neppure accorgersi della loro bellezza, nel mentre che un altro, il cui cuore arde di equina passione, se ne va a piedi e non ha che la magra soddisfazione di schioccar la lingua quando i bei trottatori lo sorpassano. Questi ha un eccellente cuoco, ma per disgrazia un bocchino così minuscolo che più di due bocconcini non gli riesce in nessuna maniera di mandar giù. Un altro ha per contro una bocca grande come l'arco dello Stato Maggiore Generale, ma ahimè gli tocca contentarsi di un pasto alla tedesca a base di patate. In che maniera strana si fa giuoco di noi il destino. Ma la cosa più strana sono i fatti che avvengono sulla prospettiva. Oh, non vi fidate della prospettiva. Io sempre mi avvolgo più stretto nel mantello quando ci passo e mi studio di non guardare gli oggetti circostanti. Tutto è qui inganno, tutto delirio, tutto è altro da ciò che sembra. Voi credete che quel signore che passeggia là in un soprabito di taglio eccellente sia molto ricco? Ma neanche per idea. Tutte le sue sostanze sono investite in quel soprabito. Immaginate che quei due grassoni che si sono fermati davanti a quella chiesa ne stiano giudicando l'architettura? Niente affatto. E si ragionano di due corvi che si sono appollaiati uno di fronte all'altro in modo tanto buffo. Pensate che quel tipo passionale che agita le mani, narri una certa storia di sua moglie con un ufficiale, niente affatto. Egli parla di Lafayette. Pensate che quelle dame... Ma delle dame, fidatevi meno che mai e guardatevi dal fermarvi davanti alle vetrine dei negozi. I ninnoli che vi sono esposti son certo bellissimi, ma ci corrono fior di banconote. E Dio poi vi preservi dal guardare sotto i cappelli delle signore. Ha un bell'ondeggiare il mantello d'una beltà. Io per me per nulla al mondo non andrò dietro a lei a curiosare. Lungi in nome di Dio, lungi dal lampione. E presto, il più presto che potete, passate oltre. È ancora una fortuna se avrete evitato che esso lasci gocciare il suo olio graviolente sul vostro elegante soprabito. Ma anche a prescindere dal lampione, ogni cosa qui respira l'inganno. Essa mente a ogni ora questa prospettiva, ma più che mai quando la notte, con la sua folta massa, vi scende, facendo risaltare le mura bianche e giallastre delle case, quando l'intera città si tramuta in tuono e il lampo, miriadi di carrozze si riversano dai ponti, i postiglioni gridano e balzano sui cavalli. E quando il demonio stesso accende le luci solo per mostrare ogni cosa in un fallace aspetto.